la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, in diretta alle 16.30, primi 43 secondi qui da una nebbiosina Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto, la versione di Oscar in diretta o in podcasting registrata. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vi dice subito di cosa parliamo oggi per indurvi a scegliere se... potendo, chiamate o meno per intervenire in diretta. Il numero è 800 24 00 24. Lo sapete per gli sms, 349 238 6666. Sapete che una delle novità, non troppe, del governo Gentiloni, inciso nel frattempo, ha preso la fiducia anche al Senato, e nel conto dei numeri, perché sapete che il Senato sarà quello decisivo per capire quanto dura il governo Gentiloni, da un minimo di 166 alla fine il contatore dei voti favorevoli a questa prima fiducia si è fermato a 169, quindi non malissimo per il governo, almeno all'inizio, visto che i verdiniani non hanno votato. Ma una delle novità, non troppa, del governo Gentiloni è il ritorno del Ministero per la coesione territoriale, cioè tradotto per il Mezzogiorno. Mia domanda, apprezzate questa novità? Era il caso? Che cosa vi aspettate? È un segnale di resipiscenza perché il Sud, l'avete visto nei voti del referendum, ha votato a percentuale più elevata per il no alla riforma della Costituzione? È un segno di attenzione perché c'è un problema aperto, come evidente, tra grandi presidenti di regione, o come si suol dire, governatori del PD e Renzi, a cominciare da Michele Emiliano, che non fa velo di volersi forse candidare alla guida del partito ed è su una linea opposta, di forte contestazione rispetto a quella di Renzi. Ma avete visto che anche De Luca ha subito cambiato idea su Renzi. Insomma, diteci come la pensate, una cosa positiva o una cosa negativa? Ecco, non vi devo ricordare che se badiamo ai numeri, beh, il gap territoriale da questi anni terrificante di crisi che abbiamo alle spalle, tanto per aggravare un problema che non avevamo risolto nei 150 anni precedenti di unità, o meglio, avevamo interrotto una convergenza che è stata forte soprattutto nel periodo dell'immediato dopoguerra fino agli anni 70, poi a strappi nelle prime crisi post 1973 ha proseguito, ha rallentato e poi è tornata ad aggravarsi dagli anni 90 in poi, e in questi anni di crisi registra differenze di reddito pro capite che sono tornate a livelli terrificanti, cioè siamo a livelli di divergenza per i quali abbiamo una Grecia in casa, anzi peggio della media Grecia per reddito pro capite in alcune parti del sud, e quindi con un reddito pro capite che, ripeto, nelle parti meno sviluppate del sud e stando all'economia legale ovviamente supera di poco i 10.000 euro rispetto ai 22.000, 23.000, 28.000 o di media di due o tre regioni del nord, che diventano poi in alcune aree del nord sopra i 30.000 euro. Questo vi dà l'idea della differenza. Quindi i gap ci sono tutti, la desertificazione di imprese e di investimenti al sud è stata ancora più grave che nel resto del paese. Uno potrebbe dire, bah, forse serve. Il problema è per fare cosa, ovviamente. Questo lo scopriremo, come ovvio. Io vi dico solo che prima di presentarvi gli ospiti e sentire la loro opinione, mi ha molto colpito, tra gli articoli pubblicati stamane su diversi quotidiani che registravano le parole in libertà dette al di fuori dell'ufficialità dei parlamentari del PD nei corridoi della Camera ieri, che ha espresso la fiducia, un articolo in cui si riportava proprio le opinioni che si scambiavano liberamente i parlamentari del PD su questo punto, cioè del ritorno al Ministero del Mezzogiorno, che come sapete è stato affidato all'ex segretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Il posto di De Vincenti a Palazzo Chigi è stato invece assunto da Maria Elena Boschi, che ha lasciato il Ministero per la Funzione Pubblica alla Finocchiaro. Detto questo, il presidente di Commissione Finanze della Camera, cioè l'onorevole Boccia, che è diventato via via sempre più critico nei confronti di Renzi in questi ultimi tempi, così parlava ieri, rivolto a parlamentari amici del neo ministro De Vincenti. Quel ministero che gli hanno dato non conta nulla. Perché in realtà tra i patti territoriali già stipulati tra, da Palazzo Chigi con i sindaci e i presidenti di regione, il controllo del CIPE affidato a Lotti, che sapete è ministro dello sport ma resta con la delega all'editoria e ha la delega del CIPE, non si è mai visto un ministro dello sport che ha la delega per il CIPE, ma ci siamo capiti su cosa vuol dire, continuava Francesco Boccia parlando ieri alla Camera, capite bene che il ministro De Vincenti avrà una sola cosa da fare, andare a parlare ai convegni. Avrebbe avuto un senso, sto sempre leggendo le parole di Boccia, se fossero state unificate la programmazione regionale e economica in più le misure di sostegno all'economia, il controllo su Invitalia e il CIPE, allora sarebbe un ministero con delle leve in mano. Ma senza ciascuna di queste leve e con il quadro della programmazione europea assegnata, fatto così, concludeva l'onorevole Boccia ieri, può solo entrare in competizione con la Svimez, cioè appunto fare rapporti e fare convegni. Questa l'opinione critica, non c'è dubbio, dell'onorevole Francesco Boccia del PD. Però, fine della mia breve introduzione, tentiamo di capire che cosa ne pensano invece i nostri due ospiti, perché talvolta la politica pensa male, ma ne esce comunque qualche cosa di inopinato e per una volta si può sperare qualcosa di inopinato o di buono, oppure si può avere l'opinione opposta, non c'era alcun bisogno di ripristinarlo perché in passato non ha fatto bene negli ultimi anni. Allora, i nostri ospiti chi sono? Innanzitutto il direttore del quotidiano economico finanziario Il Denaro, si fa a Napoli, quindi ha l'onere di rappresentare anche le ragioni del sud, dello sviluppo del sud. Alfonso Ruffo, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Eccomi, buongiorno. E poi una firma che a me è molto cara, io ho imparato tantissimo negli anni leggendo tutti i suoi libri, ascoltandolo con grandissima attenzione come interprete dell'evoluzione dell'Italia produttiva e della stratigrafia sociale dei fenomeni di sviluppo economico e produttivo nel nostro paese, Aldo Bonomi, direttore dell'Istituto Ricerca Aster, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi, Bonomi. Grazie a voi, buonasera. Posso cominciare da lei, Bonomi? Come la legge lei questa nomina? Pura esigenza del menù politico, eccetera, eccetera, o comunque un segnale e la speranza per chi è di buona volontà di poterlo interpretare e mettere a frutto in qualcosa di positivo? Beh, mi sia permessa una battuta, e non vorrei con questa battuta allinearmi subito alle dichiarazioni di Boccia che lei ha presentato poc'anzi. C'è un cambio semantico. Se prima la parola chiave era disintermediazione, adesso riappare la parola coesione. Il vero problema è che bisogna capire che cos'è la coesione sociale e se la coesione sociale si innesta dall'alto o se la coesione sociale si costruisce dal basso. Dico questo perché, altra cosa con cui sono d'accordo sulla sua presentazione, non ho dubbi che il divario del sistema paese, al di là della superata e non più usata questione meridionale e questione settentrionale, dentro i processi di grande cambiamento e di metamorfosi dentro la crisi, non c'è dubbio che ci consegnano un paese dove abbiamo alcune dimensioni della qualità della vita e della coesione sociale e dei problemi economici e sociali e di forme di convivenza alla greca, non c'è dubbio, condivido con lei, e abbiamo poi una parte del paese, per fortuna, una parte del paese in cui alcuni indicatori sono, diciamo così, alla Baviera, alla Baviera. E quindi, viva Dio, se non c'è bisogno di coesione, c'è bisogno di una logica di coesione territoriale prima di tutto, di coesione sociale, aggiungo anche i risultati del referendum, 60-40 dicono che si rompe un meccanismo di coesione sociale rispetto a questo. E quindi il fatto che sia stata rievocata questa parola, ricordo che mi pare di ricordare che era il compito attribuito a Fabrizio Barca ai tempi del governo Monti, sì. Ovviamente sembra un meccanismo di si sono rotti i cocci, vediamo cosa fare. Poi non entro nel merito perché se le dichiarazioni dal senso sfuggito oppure a ragione sfuggita da boccia, sono quelle che articolano il potere di questa parola nella dimensione che Boccia ci racconta, non c'è dubbio che ovviamente dice, vabbè, è un problema di vernice, è un problema di rappresentazione. Diciamo però invece una cosa vera, che secondo me mai come in questo momento, se noi guardiamo alla società più che alle due sole polarità, economia e politica, c'è bisogno di coesione e c'è bisogno anche, a mio parere, di ricostruire tutto ciò che è stato disintermediato. Giannino, vorrei essere chiaro, sì. Lungi da me tornare ai vecchi metodi, no, certo. Lungi da me, però non c'è dubbio che quel 60%, quella dimensione di, virgolette, protesta e rancore sociale, ha bisogno di essere di nuovo ricanalizzato in un meccanismo prepolitico, se mi è permesso, di rappresentanza, di voce, degli interessi, del disagio sociale, eccetera. E mai come ora il Sud è un territorio dove queste cose sono visibilissime. Ed è ovvio che non si può andare avanti solo ed esclusivamente con, come era stato fatto fino a poco fa, un patto tra grandi città, governatori delle regioni e fondi europei, oppure solo esaltare il fatto che sarà mai finita la, virgolette, autostrada del Mezzogiorno, grandi opere, certamente, oppure, ne cito un'altra, la TAV Napoli-Bari, non c'è dubbio che c'è bisogno di infrastrutture, lungi da me essere contrario a questo, ma qui abbiamo a che fare con un tessuto a tal punto disintermediato e a tal punto, direi, devastato anche dai flutti dal punto di vista industriale, dal punto di vista delle forme di convivenza, in cui allora preferivo che almeno si dicesse, come aveva detto Barca allora, che si riparte dalla scuola, che si riparte dalle infrastrutture di prossimità e di mobilità, si riparte con progetti di questo genere, piuttosto che rievocare il, virgolette, nessuno ne ha nostalgia, il Ministero del Mezzogiorno. Ah, perfetto. Ci siamo capiti? Perfetto, perfettissimo. Questo mi sarei aspettato. Coesione significa questo. E tra l'altro l'è sfuggito sotto il governo Monti. In realtà Barca iniziò con gli anni della programmazione territoriale, furono gli anni che videro Ciampi affidare a Fabrizio Barca. Quindi stiamo per... patti territoriali, esatto, per esatto. Lo sviluppo. Esattamente, ricordo esatto, esattamente. Quindi, allora. Stiamo per... cioè, quella è stata l'ultima volta cui si fece una scommessa riuscita in parte, molto residuale, però tentata, in cui l'idea era cresciamo una classe dirigente locale, e una classe dirigente locale che non individuava i presidenti di regione e basta, perché era già evidente allora che c'era un enorme gap di programmazione tecnica. Questa è la vera ragione per cui storicamente noi poi eravamo molto indietro nell'utilizzare le risorse europee delle strutture centralizzate tecniche delle regioni. Comunque quello oramai fa parte della storia. Sentiamo Alfonso Russo che dice. Alfonso Ruffo, che dice il direttore del Denaro? Perché anche Bonomi, come hai sentito, insomma, critico, perché passare dalla disintermediazione alla coesione è proprio, pare, una virata di 180 gradi rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni. Beh sì, non c'è dubbio che è una risposta anche emotiva ai risultati del referendum e quello che nascondono soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e tra i giovani. Tra l'altro proprio stamattina il centro studi della Confindustria ha detto che c'è un grandissimo aumento della povertà nel paese, i poveri assoluti sono 4,6 milioni, un aumento del 157% rispetto al 2007, e la maggior parte di questi tra i giovani è la popolazione del Mezzogiorno. Sì. Quindi ci troviamo di fronte a dati veramente molto molto preoccupanti che confermano quel dualismo economico che appunto ti riferivi in apertura di trasmissione. Non c'è dubbio che quello di De Vincenti sia un dicastero senza portafoglio, non c'è dubbio che possa lavorare molto soltanto di moral suasion, può fare una cosa però importante, può connettere le varie iniziative sul campo, può stimolare rispetto dei tempi. È un perfetto conoscitore della macchina e dei meccanismi che sono stati messi in movimento. E il modo di interpretare che deve cambiare. Qualsiasi nome noi vogliamo dare a questo incarico, Mezzogiorno, coesione, comunque è stato scelto il nome di Ministero per la Coesione, è importante lo spirito con cui si lavora, è importante il contenuto che si mette in questa scatola che è il Ministero, e non può essere che questo. D'altra parte, noi siamo passati da un momento in cui tutte le decisioni venivano prese dal centro, poi con Ciampi, Barca, tutte le decisioni venivano invece assunte sul territorio, dove si cercava di far nascere una nuova classe di gente che fosse eccetera eccetera. Questo, entrambi questi esperimenti non hanno funzionato, perché non ha funzionato il centralismo esagerato, né ha funzionato poi questa frammentazione sul territorio, perché questa leadership diffusa non c'è stata e molti soldi sono stati spesi male, in mille rivoli, e molti altri ancora non sono stati proprio spesi. Quindi probabilmente oggi si dovrà tentare un'operazione di equilibrio dove i tanti soggetti locali, soprattutto sindaci, presidenti di regione, saranno coordinati da una persona attenta e paziente come De Vincenti. Però appunto io non vedo tanto il successo della formula quanto nella capacità di interpretare la formula. Quindi tu dici, stante che De Vincenti è comunque uno abbastanza noto, per quello si è visto, per essere un stimolatore, attento alle cose amministrative, non è un politico puro, è uno stimolatore, ed è capace di confrontarsi, per così dire. Queste due cose dovrebbero far pensare che nell'interpretazione, almeno sia pur senza grandi risorse, potrebbe venire una cosa buona. Bene, adesso io credo molto nella differenza che fanno le persone. No, ma questo lo capisco bene, figuriamoci, abbiamo visto che in quei mille giorni l'aspetto del carattere delle persone, della leadership, è diventato fondamentale, sia negli aspetti tra virgolette positivi, ma anche negli effetti dispersivi, distorsivi ed esplosivi, come si è visto nei recenti sviluppi post referendum e nel risultato del referendum. Torniamo tra un minuto, intanto traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta con noi Alfonso Ruffo, il direttore del Denaro, e Aldo Bonomi, sociologo dell'economia e dello sviluppo. L'argomento è questa, una delle poche novità del governo Gentiloni rispetto al precedente, cioè il ritorno a un Ministero della Coesione, insomma Mezzogiorno, affidato all'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Abbiamo visto i limiti che vengono fuori dalle stesse descrizioni della mancanza di poteri che vengono espresse da parlamentari del PD, insieme alla descrizione della necessità di un cambio di marcia, quella che ha descritto Bonomi, dalla disintermediazione alla coesione, magari, ma intanto è dall'idea di una direzione e di una costruzione dal basso completamente diversa da quella che abbiamo visto sentirci proporre in questi tre anni. Alfonso Ruffo dice: speriamo almeno nelle caratteristiche personali di De Vincenti. Io vi faccio subito un esempio. Quello che si è capito, quello che avevo capito io, non lo dico per criticare, ma come interprete dei fenomeni, che il governo precedente, dando abbastanza per scontato che venisse approvata la nuova ricentralizzazione di potere con il nuovo titolo quinto che era nella riforma della Costituzione, che poi è stata respinta dagli italiani, per esempio, su alcuni problemi fondamentali che descrivono l'asfissia, il ritardo e il degrado della qualità delle offerte di servizi intorno a grandi aree urbane del sud, sto parlando per esempio del trasporto pubblico locale, si capiva che le nuove ferrovie dello Stato, guidate da persone di grande fiducia del governo Renzi, dicevano: noi tutta la ferrovia di trasporto urbano ed extraurbano di Napoli, quindi la Cumana, la Circumvesuviana, eccetera eccetera, che sta in condizioni tragiche, lasciate che lo dica a chi non è napoletano, i napoletani lo sanno, di sottofinanziamento, materiale rotabile vecchissimo, numerosissimi incidenti di linea per mancanza di manutenzione, disastri vari e diversi, e che è gestita da una società che si chiama Ente Acquedotto Volturno, per evoluzione negli anni delle partecipate locali. L'Ente Acquedotto Volturno in realtà gestisce il trasporto ferroviario nella cintura urbana di Napoli, lo diamo a Ferrovie dello Stato, lo leviamo agli enti locali, e le ferrovie del sud-est in Puglia, quella dell'incidente ricordate nell'anno scorso, le diamo a Ferrovie dello Stato, le leviamo alle competenze locali. Tutto questo secondo me non è perseguibile, e non solo perché Emiliano in Puglia, De Magistris, il sindaco a Napoli, hanno opinioni radicalmente diverse, ma innanzitutto perché non è passata la riforma della Costituzione, quindi sono tutte materie che restano non tali che lo Stato dica adesso si fa come dico io. Quanto conta questo aspetto secondo Bonomi? Beh, questo aspetto conta molto, perché ovviamente siamo all'eterna questione. E l'eterna questione è l'innovazione e la coesione. Si fanno dall'alto o si fanno dal basso? Devo dire che rispetto alla conversazione che abbiamo avuto noi poc'anzi, siamo di fronte contemporaneamente a due fallimenti. È fallita l'innovazione dall'alto dell'antico Ministero del Mezzogiorno, ci siamo capiti, certo. Ed è fallito anche, si può dire, sono d'accordo con il collega del Denaro, che anche quell'esperienza di suscitare spiriti vitali dal basso non è andata, che era poi dentro patti territoriali per lo sviluppo eccetera, decentrata a un altro virgolette centralismo regionale, non ha, i cespugli non sono diventati foresta, tanto per capirci. E quindi siamo in questa situazione. Dentro questa situazione c'era una proposta politica che è stata bocciata, che era quella ci pensiamo noi, esatto, dall'alto. Esattamente. Ci pensiamo noi dall'alto, perché a questo punto il famoso concetto di primazia del centro rispetto al margine, la clausola di supremazia, certo. La clausola di primazia presupponeva che a questo punto non avete fatto le ferrovie, non avete fatto questa cosa qua, vi abbiamo decentrato le cose, beh, interveniamo noi e risolviamo i problemi. Allora siamo a questo punto, la cosa è stata bocciata, e quindi anche questa pratica di virgolette dire risolveremo i problemi in questo modo non è più percorribile. Ci danno in cambio un ministero della coesione. Siccome la speranza è l'ultima a morire, ecco, no, lo dico in maniera proprio mai essere, certo, distruttivi, certo. Ecco, mai essere solo distruttivi. Io spero, e anche dal profilo che avete tratteggiato del ministro De Vincenti, che questa sia la possibilità. Però dico una cosa, aspetta, no, che sia una possibilità, proprio partendo anche dal pessimismo di Boccia, dice farà solo convegni e farà i numeri della Svimez. Però attenzione, se avessimo un lavoro di animazione dal basso, di quel poco che è rimasto, di quei soggetti, eccetera, che si rimobilitano in rapporto con un centro attento a questi problemi, forse questa mi pare una speranza possibile. No, comunque è più utile, secondo me, ma questa è un'opinione mia, delle cose risentite nelle ultime settimane di campagna per il referendum, in cui tra premier e governatore della Campania si trovarono a inneggiare nel fatto: qui c'è uno che dà i soldi, voi in cambio andate a votare, andate armati a votare ai seggi, testuali parole che il Presidente del Consiglio disse, io posso non essere d'accordo, ma questo serve. Secondo me c'è stata anche una reazione del Sud che si è sentito preso a schiaffi dicendo, ma che pensate, che ci date i soldi in cambio i voti con la vecchia musica? Io un po' la penso anche così, ho letto anche un po' così il voto, non voglio sopravvalutarlo. È chiaro che laddove c'è basso reddito il voto di scambio c'è, questo è inevitabile, e dove ci sono le reti criminali eccetera eccetera, però insomma quella rappresentazione, l'inno a De Luca sposato da Renzi, secondo me era culturalmente, ha avuto un grande difetto, anche di sottovalutazione della reazione che suscitava in bassi strati del Mezzogiorno. Sentiamo Giovanni da Crotone come la pensa. Giovanni. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire in merito alla questione che purtroppo come la si può chiamare rimane sempre la solita questione meridionale. Sì. Noi qua non siamo in condizioni di reddito minore rispetto al nord. Noi qua siamo senza reddito. Esatto. Io mi trovo a Crotone, l'ultima città d'Italia, sì, l'ultima provincia, sì, d'Italia, sì. Noi non abbiamo più niente, ci hanno chiuso l'aeroporto con tassi di incremento dei passeggeri dell'ordine del 100% annuo per qualcosa come 400.000-500.000 euro, che a Roma e a Milano non compri neanche un bilocale. Allora, non abbiamo più la ferrovia. No, infatti adesso non deschiamo tutte le ragioni, perché i numeri sono quelli, che siete in fondo alle classifiche, sono quelli. Guardate che c'erano tantissime telefonate, e mi dispiace per gli ascoltatori del Mezzogiorno, è un tema che riprenderò personalmente, un impegno con voi, grazie a Alfonso Ruffo, Aldo Bonomi. Continuate con la 24, appuntamento con me domani mattina, sono ancora con me, attenti a noi due, alle 8.20.